po' di ritardo colpevole, ma non troppo, visto le condizioni meteorologiche impreviste in questa giornata primaverile. Eccoci di nuovo a una nuova puntata della Fuga del Gatto, sempre qui con la Virgi e un ospite strano e inaspettato, ovvero che non ha il microfono e quindi non vi può salutare, ovviamente. Perché sennò poi si allarga, lo sappiamo tutti come funziona. Una volta riesce a scappare un attimo dal suo... Dallo scantinato in cui lo teniamo incatenato, ogni tanto riesce a liberarsi, la domenica comunque, sempre la domenica. Sì. Non è che possiamo negargli sempre, insomma. No, poveraccio. E quindi... infatti sì, è Gino che per l'occasione non metterà funky soul o quello che mette di solito, quella roba lì da scatenati da sabato sera, ma si cimenterà, cioè ci farà da DJ e ci metterà un vinile prezioso della sua infanzia, di cui poi ci parlerà, perché vogliamo sapere perché ha proprio questo vinile. Perché è in possesso proprio di quest'opera specifica. Sì, che proprio era quando abbiamo detto che volevamo fare la trasmissione su questo argomento, si è proprio esaltato, ha detto io ho il vinile, lo voglio mettere, non voglio sentire ragioni. Ce l'ho, io ce l'ho, quindi... Esatto, perché oggi parliamo di, del carnevale degli animali di Charles Camille Saint-Saëns e quindi sì, ora vi racconteremo un po' tutta vita, morte e miracoli e poi appunto proseguiremo in questa puntata tecnicamente, musicalmente appagante, perché sentirete la musica non scaricata brutale da YouTube o da... sul SIC, come facciamo di solito, dobbiamo confessare, ma in pregiato vinile d'epoca, anche perché sto trattandosi dell'infanzia di Gino, è comunque un vinile dell'epoca. E sta dicendo cose improperi. Sta borbottando. Borbotta. E sì, quindi iniziamo subito, diciamo allora, chi era costui, no Gino ma senza... No beh, di Gino ormai insomma è noto ai più, il meno famoso Saint-Saëns, diciamo che è stato sicuramente uno dei maggiori compositori francesi, noto in realtà per poche opere, nonostante che ne abbia prodotte tantissime in realtà. Lui era innanzitutto compositore, pianista e in particolar modo organista francese, cioè questa cosa dell'organo che è importante perché ritorna poi nella sua produzione. Inizia appunto come compositore e introduce in Francia anche proprio il poema sinfonico e si fece un po' paladino della musica, di quella che si chiamava la musica dell'avvenire, cioè si parla, lui nasce nel 1835 a Parigi e quindi si sta parlando più o meno appunto della prima metà dell'Ottocento. Morirà nel 1921, piuttosto anziano, quindi ecco, attraversa una bella epoca, un po' il 1800. Lui appunto si fece un po' paladino di questa nuova, di quella che lui definiva la musica dell'avvenire, riferendosi in particolare a Liszt, a Wagner, ma anche era molto amante anche di Schumann, poi vedremo. Di Bach. Esatto, in cui invece ancora, appunto l'inizio si parla appunto degli anni 40, 50 dell'Ottocento, in cui ancora invece si era parecchio legati, insomma, a tutto un classicismo sinfonico, Bach e Mozart, che rimanevano poi i modelli di riferimento. Appunto, l'importanza dell'organo, perché per guadagnarsi da vivere, Saint-Saëns lavorò in diverse chiese come organista e in particolare sostituì l'organista ufficiale della chiesa della Madeleine, la famosa chiesa della Madeleine, chi è stata a Parigi forse se la ricorda, no? Che poi dà il nome a Boulevard de la Madeleine, quella chiesa enorme, neoclassica, dove poi ci sono anche tutte le tombe, insomma... di personaggi importanti, e le sue improvvisazioni all'organo incantarono appunto il pubblico e gli procurarono appunto questa fama. Addirittura nel 1860 Liszt affermò che Saint-Saëns fosse il più grande organista del mondo. Ecco così. In realtà lui fu un intellettuale proprio a tutto tondo e sin da giovane si dedicò, oltre che alla musica, proprio allo studio della geologia, dell'archeologia, della botanica, dell'entomologia, della matematica, quindi ecco un personaggio particolare anche per l'epoca, perché non era proprio un musicista e finito lì, cioè era proprio un... Come dovrebbe essere peraltro. Esatto, invece lui era un così poliedrico e si dedicava appunto a svariate discipline. perfino, insomma, scrivendo perfino articoli sull'acustica, quindi proprio sulla fisica della musica, sull'acustica e sulle scienze occulte. Qui vabbè, non vorrei fare un collegamento troppo forzato, però si spiega un po' il perché di questo vinile in possesso. Dice, insomma, vabbè, chi ha voluto capire capisce. E addirittura appunto esperto di strumenti antichi e forte promotore della musica strumentale in Francia, cioè lui proprio aveva questa inclinazione per la musica, voleva riportare appunto, togliere un po' l'attenzione dall'opera, intesa proprio come opera lirica, e riportarla alla tradizione della musica strumentale. Quindi ecco, dopo la caduta della Comune di Parigi fondò questa Société Nationale de la Musique insieme a Romain Bussin, e tramite questa organizzava l'esecuzione di lavori di altri compositori, quindi proprio spingeva la scena di Bussin, insomma, sì, era uno di noi, dai, però sì, e dei suoi stessi lavori. E per molti anni appunto rimase a capo di questa accademia, valorizzando appunto i musicisti dell'epoca. Fra l'altro era un ateo anche, io sì, lo vorrei sottolineare. Ovvio, sì, beh, lui era proprio la rappresentazione dell'intellettuale, quello proprio che credeva nella scienza, nello sviluppo, appunto, no? L'amore per tutte queste altre... L'illuminista. Sì, profondamente, cioè... E quindi ecco, per darvi così un'infarinatura generale del personaggio, è stato anche uno dei primi sostenitori della musica di Wagner, che come molti sapranno non era molto Wagner non fu mai molto amato all'inizio, e proponeva molti brani delle sue opere, perché poi fu anche insegnante alla scuola di Liedermeyer, quindi insomma, e addirittura la prima francese della Marcia del Tannhäuser fu eseguita grazie a lui, e Wagner stesso rimase stupito della sua bravura nell'orchestrazione del Lohengrin, Tristano e Isotta, Sigfrido e altre opere, e addirittura Wagner lo definì la più grande mente musicale dell'epoca. Ora vabbè, di sicuro Wagner, insomma, gli aveva fatto piacere, quindi è chiaro. Era un ragazzo che comunque... Perché siccome ne capisce, è per quello che mi piaccio. Ne capisce, sì. Wagner non era molto modesto. Però, invece, paradossalmente, Sanzano odiava i suoi contemporanei, disprezzava proprio molti colleghi tipo Massenet, Dindy, Franca, ma anche Debussy proprio non gli piaceva, perché non aveva quest'amore per questa corrente un po' che c'era in quel momento della musica francese, ecco, eseguita con le caratteristiche di questi musicisti, no? Molto, molto melanconica, molto, lui aveva proprio più altri gusti, gli piaceva evidentemente, insomma, se gli piaceva Wagner e Liszt si capisce che gli piaceva, insomma, uno stile più... non voglio dire più avanti, perché non vuol dire niente, però di sicuro più imponente, più dinamico, più evoluto in un certo senso rispetto, e quindi sì. Ecco, questo era un po' il personaggio, era un punk d'altro, era un ragazzo, poi d'altra parte ritornò un po', come sempre succede, ritornò un po', diventò un po' reazionario con gli anni, ecco, sì, vabbè, è chiaro, succede, anche sempre. I punk spesso hanno fatto, sì, questo volentieri, percorso volentieri. E il punk è morto, Sanzen alla fine diventò un po' così. E per parlare appunto dell'opera di oggi, il Carnevale fu una delle sue molte opere, e nel 1886 lo completò, il Carnevale degli Animali, appunto la cui prima ebbe luogo il 9 marzo di questo anno, benché il lavoro fosse destinato a guadagnarsi una straordinaria popolarità, come spesso succede invece, Saint-Saëns addirittura ne proibì la rappresentazione, cioè non voleva completa, sì. Permettendo solo l'esecuzione di alcuni movimenti, tra cui quello del cigno, che è uno dei più famosi, poi lo sentiremo, molto bello, e che è un brano per violoncello e pianoforte. E l'opera è stata scritta un po' come uno scherzo musicale, e Saint-Saëns temeva che appunto avrebbe potuto nuocere al suo buon nome, perché per lui era appunto un'opera piuttosto così frivola, un po'. Beh, anche perché lui si sta, poi lo vedremo meglio, però prendendo gioco un po' di tutta la scena del, esatto, momento, e quindi insomma spesso nei carnevali probabilmente sì, l'aveva scritto effettivamente, però un po' temeva anche le reazioni, sì, di tutto il mondo intorno. A volte veramente hai visto anche con Mussorgsky, no? Nel quadro di Spezia, spesso le opere che poi sono state quelle più famose di certi musicisti non erano per niente considerate fondanti per loro, da loro stessi, no? E quindi boh, magari non lo consideravano qualcosa degno di preso e preferivano, insomma, pubblicizzare altro. E nel suo caso, anche qui, di nuovo, ci sono delle, come dicevi, delle forti corrispondenze col Carnevale di Schumann, proprio perché ha la stessa struttura. È un'opera appunto composta da parti molto brevi, proprio come quello di Schumann. In questo caso invece delle maschere, dei personaggi, ci sono gli animali. Chiaramente anche qui a volte gli animali sono utilizzati come metafore di personaggi esistenti, a volte critici musicali, a volte magari altri musicisti appunto. E quindi appunto proprio come in quello di Schumann ogni parte, ogni piccolo brano sono 14 in cornice appunto un animale specifico, animali specifici o in generale un ambiente. E questo. Beh, io inizierei a far sentire il primo brano per poi magari raccontiamo un po' meglio e ci facciamo raccontare come mai appunto... c'è il fruscio tipico dei vinili. Quindi, e come mai appunto Gino conosce questo vinile a menadito? Aspetta a mettere il disco perché essendoci fruscio lo faccio partire il volume dopo. Allora, prima di far partire il disco vi volevo dire solo dettagli tecnici e burocratici che però ci tengo a dirveli, ovvero il sottotitolo dell'opera è Grande fantasia zoologica per due pianoforti e orchestra da camera. Non, almeno io non ho trovato indicazioni di tempi, esecuzione e andamento, quindi accontentatevi di sapere che l'orchestra da camera in particolare si intende due pianoforti, flauto, clarinetto, armonica, xilofono, celesta, attenzione il nostro strumento preferito, e un quintetto d'archi. E in questo vinile che possediamo e vi facciamo ascoltare, l'esecuzione è al pianoforte di Pavel Stefan e Ilya Jurnik, boh, chissà se si leggono così, e l'Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Martin Turnovsky. E il primo pezzo che ascoltiamo è l'introduzione con la marcia reale del leone, giusto? Del leone, esatto, mi confermate? Che descrive l'avanzata del leone, è immaginato come appunto come il re della foresta, no? E gli accordi ripetuti dei pianoforti sottolineano la cadenza del passo dell'animale. La solennità del brano è resa dalla sonorità chiara e incisiva, che è una caratteristica in generale dello stile di Saint-Saëns, e in tempo andante maestoso, qui mi dicono. Come giustamente Leone. Il leone si presenta con una melodia dal ritmo molto marcato e solenne, che ne evidenzia il carattere e la superiorità nei confronti degli altri animali. E lui lo vedeva così. Quindi questa è proprio l'intro e marcia reale del leone, che è anche una delle parti più famose poi. Sentiamocelo. Ecco, e questo era il primo brano che vi volevamo far sentire, e abbiamo un po' di difficoltà, chiaramente, essendo un unico vinile, nel separare le tracce. Però bello, bello quel vinile. Rende, mi piace un sacco. Eh sì. E ora dovremmo chiedere al nostro ospite, vieni a raccontarci, staccati da quella tua postazione vinilica e vieni a raccontarci come mai sì, ti piace tanto questo vinile e come mai lo hai. Ora vogliamo sapere tutto. Ma in realtà, io il vinile ce l'ho perché avevo, quando stavo a Torino, no? Io abitavo in una zona molto bella della città, che era vicino a una stazione. Questa stazione si chiamava Stazione Dora, ed era una località di Torino nota per il panorama e queste cose qui. Bene. E nei parchi dove giocavo c'erano sempre tanti signori, e questi butta benissimo, detta così. C'erano questi signori che venivano e poi si infrattavano e poi andavano via e lasciavano delle tipo come le freccette, no? Benissimo. Tipo le delle siringhe piantate negli alberi. Voglio vedere dove questi signori in realtà ci avevano sempre anche era gente che aveva dei grossi problemi familiari, per cui aveva sempre tanti problemi di soldi, no? Sì. Allora uno di quel giorno che ero al parchetto mi fa: ma non è che ti interessa comprare dei dischi? Ecco. E mi ha aperto il bagagliaio della macchina, c'aveva questi tanti dischi, ho detto te li vendo tutti a stock. Così io ho guardato questi dischi, no? E ce n'erano tanti, c'era Jovanotti, era appena uscito Bad di Michael Jackson, cioè roba tosta, no? Allora io gli ho detto, bomba, sì, guarda, li piglio tutti. Poi in realtà sono arrivato a casa e ho visto che solo i primi due erano quelli, poi gli altri erano tutta questa roba qua, no, di musica. Chiaro. E io pensavo anche io poi di rivendermeli a mia volta, no? Però per gli stessi motivi, no, assolutamente. Io sono un ragazzo pulito, anzitutto. Sì, vabbè, io sono sempre stato pulito, cioè vivevo in quel, ma comunque frequentavo le palestre, capito? Ero il classico ragazzo del ecco. Vabbè, lo scopo era rivenderli, invece poi per sostenere la causa rivoluzionaria, va bene, io li volevo rivendere per quello. Certo. E però alla fine ho piazzato solo Jovanotti e Michael Jackson e gli altri mi sono rimasti sul groppone. Allora ho detto vabbè, ce li ho, e allora sono andato al Balloon e mi sono comperato un giradischi. E poi ho iniziato ad ascoltare questi dischi, e in particolare mi ero affezionato a questo degli Animaletti perché era più facile da capire, cioè gli altri erano difficili, no, questo degli Animaletti invece era semplice, quindi anche una mente semplice come me era in grado di... Mi sono pentita ovviamente di averlo chiesto a questo punto, ma già diversi minuti fa, però bene, ecco, mi sembra una storia interessante proprio posso fare una domanda a te? Ma ora che io sono al microfono, no? Quando devo andare ora a mettere il disco? Andare? Sì, la signorina le farà accenno, lei si alzerà. Okay. E tornerà alla sua postazione. Scusate se ho interrotto. Grazie, volevo ringraziare per questo bellissimo inciso, proprio da, Torino anni 80, cioè proprio una roba di immagine, sì, del disagio, No, ma infatti io mi pensavo che dicesse delle no, cose, vabbè, non no. so, il mio primo disco. No, ma io te l'ho detto, mi sono pentita subito e che tuttora domande. Mi pento di aver fatto questa domanda, però è una buona lezione, perché non chiedere mai allo schiavo com'è che è in possesso di alcune cose, perché la risposta... Sì. Potrebbe non piacerti. Sì, ma è come quando vai a Torino e ti dice non li guardare. No, che cazzo guardi? Fatti i cazzi dice, tuoi. Vuol dire che un motivo c'è. Infatti ci sta bene, ma le gatte sono curiose e la curiosità sarà la nostra fine, come insegna il detto. Quindi ben ci sta, e se volevate, appunto, se aspettavate una storia marcord romantica, niente. Beh, un po' Oliver Twist, sì, dai. Sì, ecco, ovvio, perché il disagio, appunto, no? Certo. Così, l'orizzonte del disagio. Ebbene. Bene, andiamo avanti. Al solito deludente, andiamo avanti. Galline e galli. Questi animaletti che tanto piacciono al nostro amato. Adesso è la volta, sì, di galline e galli, pull e cock. Ecco, che detto così, ok, benissimo. Sembra un film porno, sì. Inglese anni 80. Sì, anche un po' una cosa del Monnezza. Scusate, sì. Vabbè. E invece pianoforti, violini e viola riproducono il chiocciare delle galline per 35 battute e i chicchirichì sono resi da note corte e incalzanti con l'acciaccatura sulle note acute. Quindi, ecco, di nuovo qui proprio lui... cerca di riprodurre, no? Esattamente i suoni di questi animali, addirittura nelle loro varianti, appunto il chiocciare, il chicchirichì, cioè, quindi proprio si vede l'attenzione che questo autore aveva proprio anche per, come si diceva prima, per la sonorità, per le sonorità, cioè non voleva soltanto ricreare un suono e basta, voleva proprio rendere le differenze cromatiche. Non a caso, infatti, lui fu definito spesso il più tedesco di tutti i compositori francesi, perché a causa proprio della fantastica abilità nell'elaborazione tematica, quindi proprio la capacità di questo autore di elaborare un tema e di renderlo proprio, ecco, di rendere l'immagine proprio vivida e non soltanto stilizzata, abbozzata. Sì, no, tra l'altro usando spesso anche degli escamotage armonici e tecnici molto, molto interessanti, sì. Perché ad esempio era un grande stimatore della scala a toni interi, che è una scala, insomma, non viene usata tantissimo, soprattutto nella musica classica, dopo è stata recuperata, però insomma, è una scala di sei toni interi che dà comunque un'atmosfera piuttosto... strana, un po' sospesa, la sentiremo, insomma. E quindi sono tutti escamotage un po' particolari, non proprio banali, ecco. Chiaro, no, appunto, come si diceva, per questo è stato sempre, appunto, così considerato un po' particolare rispetto magari a altri autori del suo periodo, magari che hanno avuto anche più, sì, più riconoscimento, magari anche con un livello, ecco, di successo diverso, però è sempre stato Camille Saint-Saëns è sempre stato un po' particolare rispetto a tutto, sì. Grazie anche a questa forse poliedricità che aveva negli interessi e che poi gli dava anche, no, l'ispirazione per, non che non abbia fatto appunto opere tradizionali, però appunto ha avuto questi momenti, anche questo appunto, questo lavoro è proprio, che poi è rimasto uno dei più famosi. Certo. Diceva, cioè, forse quello per cui è conosciuto alla fine. Certo. Bene, quindi ascoltiamoci, appunto, sempre dal Carnevale degli Animali, dicevamo, Saint-Saëns, e ascoltiamoci, sì, Galline e Galli, Poule e Coq. Ci sei, DJ? Vai. Allora, secondo me è finito, non è che sono così sicura, anche perché dobbiamo svelare che vicino alla nostra regia qui su Marte, sì, c'è una sala prove che ha appena iniziato a fare sì. Punk hardcore, e quindi insomma... Questo è proprio da commitment. Sì, siamo un po' confusi in effetti, perché qua arrivano... Ma poi secondo me con la porta aperta, sì, maledetti, sì. Punk. Va bene, però insomma si era finito, era molto breve. Sì, sono molto brevi, un po' come quello di Schumann, appunto, la struttura del Carnevale, no? Questi pezzi molto brevi, la sonata intera appunto è, mi sembra, 23 minuti, quindi appunto è tutto molto veloce. Volevo aggiungere che... nei suoi 86 anni di vita Saint-Saëns ha scritto centinaia di composizioni, come si diceva prima, appunto questa è una delle più famose, ma molta musica a soggetto e teatrale, infatti, come si diceva prima, no? Cioè lui proprio amava spaziare, e 4 poemi sinfonici, 13 opere e tra cui l'opera Sansone e Dalila, che è una delle più famose, e il poema sinfonico Danza Macabra. Eh sì, è vero. Da Danza Macabra. E sono appunto insieme al Carnevale degli Animali rimangono le sue composizioni più famose. Sì, direi appunto le più probabilmente anche interessanti. In tutto ha composto più di 300 lavori musicali, quindi ecco, ed è anche uno dei primi, mi interessa molto questa cosa, è uno dei primi a aver scritto espressamente per il cinema, cioè le colonne musiche per il cinema, per alcuni film, insomma, tra cui l'assassino del Duca di Guisa, un certo, La Vedano, uno dei primi film. Quindi ecco, proprio poliedrico da questo punto di vista. Va bene, allora seguendo troviamo, facciamo, allora sì, cioè Emioni, ovvero Emion, gli animali molto veloci, animo veloce, e vogliamo farli, io sì, li farei sentire, sì, e dopo invece la tartaruga andrei a spiegherei dopo. Sì, giusto? Gli animali veloci appunto propone questa corsa molto frenetica di quelli che lui immagina essere asini o cavalli selvatici in un tempo che è presto furioso e che caratterizza questa parentesi particolare. Qui c'è proprio questa parentesi virtuosistica dei due pianoforti, come diceva la Maria all'inizio, i pianoforti sono due, e qui dopo veloci arpeggi e scale il brano si conclude con degli accordi finali, però è fatto proprio per far risaltare la bravura dei pianisti. Dobbiamo dire che Saint-Saëns, oltre che un grande organista, era proprio un bravissimo pianista, un esecutore, cioè famoso proprio per essere un grande esecutore, anche musicista. Ma infatti a me mi ricorda veramente Bach come tipo di figura. Ma lui amava molto Bach, e Mozart poi è stato uno di quelli che poi l'ha valorizzati di più che come esecutore, poi insomma, poi ne parleremo. Va bene, sentiamo Emioni. Ecco qua, finita, ci coglie sempre un po' di sorpresa perché è così, dirompentemente sì, veloce. Complimenti al nostro DJ, si sta rivelando veramente preciso. È un DJ di un certo spessore. Complimenti, perché sennò sembra sempre che poi ne parliamo male. Ma non l'abbiamo detto, lo diciamo ora perché per introdurre questi due nuovi brani, che come nel Carnevale di Schumann, anche qui ci sono delle citazioni musicali, cioè ci sono proprio delle parti, in alcune parti vengono ripresi brani addirittura di altri, appunto, di altre opere. In Tartarughe l'ironia del brano consiste proprio nella scelta del tema, perché è il famoso Can-Can, quello che poi è in realtà... forse non tutti sanno che il Can-Can nasce dall'Orfeo all'Inferno, cioè sì, nella quadriglia dall'Orfeo all'Inferno. Poi è sempre stato usato come balletto da insomma con le ballerine, però appunto di Offenbach originariamente. Quindi un travolgente balletto viene proposto invece in versione lenta, quindi per descrivere la tartaruga evidentemente, quindi capovolge, cioè l'ironia capovolge il senso del balletto e lo fa diventare, immaginatevi appunto, un incedere di tartarughe. E quindi appunto anche qui proprio una citazione diretta, perché prende proprio gli accordi dell'Orfeo all'Inferno. Vogliamo anche introdurre anche quello dopo? Ma io sì, io li farei tutti attaccati se il DJ è d'accordo. Farei tartarughe e poi elefanti insieme. Così io, mentre vanno i due pezzi e dureranno 2 minuti, vado giù alla sala prove a ucciderli. Sì, ci sarà un omicidio nel frattempo. Sì, sì, sì. Dopo le tartarughe appunto sentirete l'elefante, che anche qui espone una citazione, perché l'animale viene descritto dal timbro grave del contrabbasso che si espone su un valzer che è l'accompagnamento del secondo pianoforte. Però il tema è di nuovo un tema famoso, perché è la danza delle silfidi di Berlioz, quindi di nuovo qui citazione diretta, che dà ironia al brano, perché le silfidi appunto erano creature mitologiche molto, no, longiline e leggiadre, graziose, che contrastano invece con l'ovvia pesantezza dell'animale. Quindi anche qui lui usa un tema di un'altra opera e lo ribalta. Sì, non so Berlioz quanto sarà stato contento e felice. Non lo so se Berlioz era felice, però era una citazione diretta, insomma. Sì, sì, diciamo, è comunque sempre pubblicità, bene o male. Non c'è una... Puttana, ma che si dice? Si diceva, non esiste la cattiva pubblicità. Ecco, quella. Qua, bene o male perché se ne parli, quindi non si sa se Berlioz fu contento, però di fatto lui usò le silfidi per descrivere l'elefante. Quindi proprio questi due brani ci danno proprio... una misura di come il carnevale fosse appunto una composizione ironica, a scherzo proprio, no? Certo. Buffa, ecco. Va bene, partiamo? Andiamo prima così, sì, tartarughe. Che roba, questo si sentiva proprio, bellino, eh? L'elefante, sì. L'elefante proprio era un elefante. Un elefantone. Sì. Come si diceva prima, appunto lo stile proprio di Saint-Saëns, che era sempre stato definito appunto molto logico e pulito, no? Molto levigato, mai troppo eccessivo. E le sue composizioni pianistiche, le sue opere spesso vengono, insomma... costituiscono il collegamento stilistico tra Liszt e Ravel, cioè fa un po' da ponte, secondo i critici, tra questi due autori, e effettivamente insomma ci rientra un po'. Si diceva appunto che era un bravissimo esecutore, infatti fu considerato appunto oltre che un organista senza uguale, ma si dice che lo stesso Liszt ritenesse Saint-Saëns e naturalmente se stesso, ovviamente, i due migliori pianisti d'Europa. Ma che bello! Sì, questo stile di Saint-Saëns era molto composto e raffinato, e il suo modo di suonare era proprio caratterizzato da scale e passaggi straordinariamente dolci, dalla velocità e da una raffinatezza aristocratica, non è vero? Che lui poi effettivamente riversava effettivamente poi in molte sue opere. Il prossimo brano di questa marcia degli animali è Canguri. Canguri, che dedichiamo al canguro Irene, che forse ci ascolterà. E i canguri sono riprodotti da queste brevi successioni di note dei pianoforti, prevalentemente appunto acciaccature sulle note, che rappresentano il salto dei canguri. E nonostante il carattere comico della descrizione musicale, il brano in realtà contiene un po' un tono di mistero e di ambientazione fantastica, introducendo il brano successivo, che non so se lo vogliamo... Ma a questo punto io li unirei, sì, annuisce il DJ. E il brano successivo è Acquario. Acquario, esatto, che non è la Gemma di Age of Aquarius, ma... di cui sono sicura il nostro DJ saprebbe fare il balletto sul tavolo. Ma lo sta facendo, esatto, infatti. Sì. Fare quello che Treat Williams fa senza buttare in terra niente, che a me mi manda sempre il manicomio quella cosa lì. Che va bene, scusate, erotica di questo amore che ho per il protagonista. E tornando all'acquario, i pianoforti, il flauto, e qui si introduce un nuovo strumento che è la glassa armonica. La glassa armonica. La glassa armonica è uno strumento bellissimo. Non so assolutamente che cos'è. Il Museo degli Strumenti Musicali. È molto bello. Ora non sono un'esperta, quindi non so se ve lo descrivo bene. Però è una specie di... non vorrei dire un pianoforte, perché non è proprio lo stesso principio, però in cui i suoni vengono dati dall'aria che passa attraverso dei tubi di vetro. Non so se è difficile descriverlo, allora poi mi preparo e ve la descrivo meglio, però dà questo senso proprio di acqua, perché c'ha questo suoni molto tondi, molto... Ma è a percussione? No. Mi sembra che sia, sì, cioè a pedale, il pedale va ad azionare un meccanismo che batte proprio su della specie di bicchiere, che hanno l'acqua proprio, cioè all'interno c'è un sistema di tubi con l'acqua, che sono riempiti a diversi livelli e che suonano poi diversamente. Lo controllo, poi ve lo spiego meglio. No, che bellezza! Io l'ho vista... Sì, l'ho vista proprio davvero bellissima. E in più gli archi e il tempo è andantino. Insomma, i fraseggi e gli arpeggi esplorano appunto le sonorità inconsuete, descrivendo l'ambiente impalpabile al contempo soave dell'acquario. Le scale ascendenti degli archi e del pianoforte descrivono efficacemente le bollicine dell'acquario. I pianoforti suonano nel registro acuto. E appunto c'è un tema di violini e di flauto traverso, quindi tutto cerca di riprodurre le sonorità dell'acqua, ovviamente. Sì, e poi probabilmente anche la molteplicità di bestiole che si trovano nell'acquario, esatto, insomma, in qualche maniera. Esatto. Va bene, quindi prima canguri e dopo i bizzarri canguri l'acquario. Ci sei, DJ? Dai. Thank you. meraviglia questo. Ecco, bellissimo. Io non so se vi ha dato questa impressione anche a voi, ma questo è il tema dell'acquario, è stato usato in un sacco di colonne musiche per sì, anche film. Secondo me anche, ma anche proprio cartoni animati. Cartoni animati, film, perché proprio si riconosce, c'ha questa caratteristica. Sì, c'è questi grappoli di note. Di Tim Burton. Ah, è vero. A me mi ricorda alcuni. Perché c'ha proprio, sì, questo tema molto, molto misterioso. La glass armonica, che si diceva prima, o armonica a bicchieri, è uno strumento che fu inventato da Benjamin Franklin, niente cocò di meno che, nel 1761. Sì, ed è molto utilizzato anche nella musica contemporanea, ovviamente, per ovvi motivi. Ma io me lo sono ricordato quando mi hai fatto vedere la foto sì, fuori è proprio, da Londra. Sì, uno strumento musicale idiofono a frizione, cioè c'ha proprio questo... questa serie di, proprio questo fuso di vetro che va dalla parte grande alla parte piccola, poi si vede infilato proprio in una struttura che sembra un piccolo pianoforte, e appunto viene suonato. È bello, è proprio bello, è bello il suono, rende questo suono proprio. Ce n'è vari tipi. Ora questo è quello inventato da Franklin, poi ce n'è un altro anche Glasspiel, proprio fatto con i bicchieri invece, no? Sì, è vero, che è un po' più tipo più xilofono. Antico, sì, esatto, che quello si suona proprio con le mani, strusciando sì, le mani sui bordi dei contenitori. Sì, che ha un suono appunto un po' tipo... Quello un po' più artigianale, diciamo. Sì, però sì, ecco, è interessante perché rende proprio questo senso del, appunto, bello. Va bene, e quindi allora ora continuiamo e dall'acquario ci inerpichiamo invece su boschi e cose simili, perché c'è cioè, prima personaggi dalle orecchie lunghe, che sì, però mi fanno morire. Personaggi dalle lunghe orecchie, che però siccome il nostro DJ ci dice che è un brano molto corto, magari lo attacchiamo sì, al successivo, che è il cucù nel bosco, le cucù au fond des bois, e... anzi, des bois, quindi nei boschi. Dei boschi, però, sì, boh, sì. Quindi personaggi dalle orecchie lunghe che pare, insomma, riproducano il raglio degli asini, con note molto acute dei violini, succedute poi da note subito basse, che dovrebbero riprodurre appunto l'iho dell'asino, no? Che va in alto e poi scende. E il titolo del brano però allude anche ai critici musicali del tempo, cioè è una boutade verso i critici musicali del tempo e alla loro aria saccente che Saint-Saëns evidentemente detestava, e con questo brano prende di mira. Bella la parola boutade, guarda, ancora non l'avevamo usata, secondo me alla fuga butade del gatto, non so perché. Ma io sono una ragazza un po' così, insomma. Cioè, giusto, ci va, ci ma per quello che sei diventata co-conduttrice. Sono stata promossa, no? È chiaro. E, ho fatto lo scatto. E quindi la descrizione, appunto, con questa descrizione caricaturale, lui prende di mira, appunto, parla degli asini e poi di asini veri, che sono appunto molto meno carini di quegli animali, che sono i critici. Il cucù nel bosco, quindi il cucù nei boschi, in realtà, come diceva Mari, si inserisce appunto subito dopo, quindi i pezzi sono 8 e 9. E il cuculo si inserisce con il suo tipico cucù suonato dal clarinetto, in questo caso, quindi il clarinetto proprio riproduce il suono, in una trama di accordi minimali sostenuta dai due pianoforti. L'atmosfera rende i colori, le sensazioni della foresta con la presenza quasi nascosta dell'uccello, quindi non si sente proprio in primis. È come è giusto, come rende nella l'ambiente realtà sonoro, perché lui era proprio bravo a restituire, come si diceva prima, di nuovo lui non fa una, appunto, una stilizzazione fiabesca, no? Un po' alla Prokofiev, se si vuole, alla Fierino e il Lupo, ma che descrive proprio, usa uno strumento e un animale per descriverlo, no? Invece lui fa proprio crea quello che si chiama l'ambiente sonoro, il paesaggio sonoro, che sarà poi tanto amato dalla musica contemporanea. Sì, che è molto sinestetica come cosa, perché comunque ti dà la possibilità di entrare nella musica anche con altri sensi, perché sì, effettivamente ti immagini proprio l'atmosfera, è quasi vederla, è quasi esserci. In più, appunto, è molto meno così buttata lì, molto meno diretta rispetto appunto a una descrizione immediata, ma ti rende proprio tutto anche un po' come l'acquario, cioè sì, ti dà un paesaggio, cioè la descrizione proprio di paesaggio sonoro di un elemento, quindi che bravo, che bravo. Si può capire perché amava Wagner, poi lo diremo, ma ci sono tantissime corrispondenze, poi si dirà proprio nell'uso del restituire il paesaggio sonoro. Eh sì, bravo, ci è piaciuto. E quindi ora sentitevelo anche voi, personaggi dalle orecchie lunghe e il cucù nel bosco. Ecco, e questo era il cucù, preceduto dai personaggi, quelli lì con le orecchie lunghe. Sì. E si diceva fuori onda che in realtà quel specie di raglio che sì. Sentivate, insomma, vi avrà ricordato qualcosa? Beh, sì, per noi, appunto, per i venuti del Novecento, il raglio assomiglia molto, e chissà che poi forse lui l'ha ripreso da qua, ma lo stile, non so se vi ricordate la colonna musica di Psycho, ovviamente, perché è una delle cose più celebri. La doccia, film. Coltello nella doccia, quello, non potete non ricordarlo. Si chiama L'ostinato hermaniano, cioè Herman, che era il compositore delle colonne musiche di molti film di Hitchcock, e che poi ha contribuito tantissimo alla fama dei film di Hitchcock. Poi, insomma, grandissima parte della tensione, immaginatevi Psycho senza la colonna musica. E quindi Herman, probabilmente, avendo una grande cultura musicale classica, sinfonica, chissà se aveva ripreso da qui, perché assomiglia tantissimo, cioè l'ostinato del violino, che produce quel senso quasi proprio che dà quasi noia, quel grattato, quell'acuto così forte, ripetuto, ora nel caso di Herman molto più veloce, ovviamente. Sì. Però ecco, viene famosa, non si inventa nulla, perché somiglia moltissimo, insomma, a quello. E d'altra parte, la chi la fa l'aspetti? Dell'ostinato ermaniano. Sen copiava, è giusto che sia copiato. Esatto, non si inventa nulla. E, il successivo, i successivi due brani, giusto? Sì, andiamo di due in due ora. Sono Voliera e Pianisti. Ecco, è bellino perché Voliera, chiaramente, parla del rapido volo incessante degli uccelli, che non sono specificati, uccelli in generale. Vari, stormi. Vari, sì. Riprodotti da una frase di Flauto, ripresa più volte dall'accompagnamento degli archi. Il brano suggerisce ovviamente questa sensazione di leggerezza, di libertà, e infatti appunto dopo aver ascoltato questo brano, il fraseggio, gli uccellini rispondono, insomma cantano e sbattono le ali come per cercare di volare in un frullio che è riprodotto dal suono del pianoforte. Eh sì, perché poi infatti la voliera è chiusa, quindi sono degli uccelli che in qualche modo volano ma sono ingabbiati e non riescono a volare liberamente. Anche qui, insomma, evidentemente ci sono delle probabili frecciate. Sì. Il successivo Pianisti è proprio buffo perché lui inserisce i pianisti in una categoria degli animali, quindi senza volerne agli animali. È l'unica, infatti, in effetti. È l'unica categoria umana, perché la musica di questo brano non è altro che una serie di semplici e ripetitivi esercizi di studio per l'apprendimento del pianoforte. Inserendo la razza dei pianisti tra quella degli animali, Sansan dipinge una divertente parodia di questi musicisti che all'epoca, appunto, come ben sappiamo, erano centrali nella scena musicale, perché erano proprio dei fenomeni un po' da baraccone, cioè più bravo eri, il pianista era centrale, e sempre di più lo diventerà poi durante il secolo, appunto. E costretti ad ore di ripetitivo ed estenuante studio della tastiera, lo strumento viene messo in ridicolo mentre propone elementari studi piuttosto che scale, arpeggi o virtuosismi, proprio per far capire quanto in realtà per arrivare al virtuosismo ci vogliano appunto ore e ore e ore di pratica. Sì, e quanto l'Accademia poi finisca a rivelarsi fine a se stessa spesso. Sì, perché appunto era proprio un momento in cui appunto si parla di lui stesso, di Liszt, insomma, come i più grandi pianisti della storia, e in un momento in cui il piano è proprio centrale nella produzione musicale, no? Sì. Queste orchestre dal camera in cui il piano poi faceva il solo, la parte, pensate a Debussy, pensate insomma a Chopin, insomma a tutti i componimenti che avevano il piano come strumento centrale, anche perché era il momento di massimo sviluppo poi, insomma, anche dello strumento in sé. Quindi. Bene, e quindi sentiamoci Voliere a pianisti, va? Thank you. ecco, e con Scratch anche. Attenzione, Scratch bellissimo. E, sì, e questo quindi era la voliera, avete sentito per prima, e poi i pianisti, effettivamente questa ossessività di queste scale. Sì, sì, sì, era bellino. Lo Scratch finale è veramente manco in un film di Baz Luhrmann, no? Lo Scratch sul pezzo classico, grande. Oh yeah. The DJ, il prossimo pezzo, Fossil, credo sì. In inglese. E in francese è molto, molto carino, perché appunto i fossili che vengono riprodotti dallo xilofono, che fa pensare al rumore proprio delle ossa, cioè c'è questo senso di no? I temi di questo brano piuttosto brioso sono tratti dalla danza macabra dello stesso Saint-Saëns, e quindi un'autocitazione, come si diceva, la danza macabra, che è una delle sue opere poi più famose. E anche, non solo, ma anche dal barbiere di Siviglia di Rossini. Quindi qui ci sono proprio dei riferimenti diretti ad opere molto celebri. Con questo brano Saint-Saëns vuole prendere in giro di nuovo i critici musicali. Lui proprio ce l'aveva sta cosa. Ma si capisce. Considerati vecchi e antiquati come fossili, appunto. Quindi è sempre verde questa di nuovo cosa. Cioè, anche adesso si potrebbe usare. Preso. Sì, ma perché chi non sa fare critica, quindi di base. Oh, è vero. Io sono contro. Sì. Sono contro. La fuga del gatto prende questa sì, coraggiosa questa posizione. Nonostante io non sappia fare niente, comunque non stai. Critica, ma veramente non ho voluto fare nemmeno quella del cinema, perché li odio, li detesto. Maledetti con tutta siano. L'umiltà do delle opinioni, ecco, ma non critico, perché la figura del critico è per me è proprio un po'. Insomma, schifo almeno e fastidio. Non sei truffo, se no vai a casa fondamentalmente. Sì, sì, sì. O Bogdanovic, ma infatti hanno fatto i registi poi. Quindi i fossili, che poi anche è buffa questa cosa, che a me non verrebbe mai effettivamente come animali, ma tecnicamente. Ma lui era amante appunto anche dell'entomologia, della palontologia, era proprio uno scienziatone. No, tecnicamente ha perfettamente ragione, e sono animali. Ce l'ha messi. Sì, è giusto. Bravo. Sentiamoci i fossili, va? Eccolo, e si sentiva sì, proprio benissimo sia il barbiere di Siviglia che il suo tema. E beh, certo, voleva essere una critica, però era bellissimo sto pezzo. No, era molto bellino. E anche qui, secondo me, non vorrei fare salti troppo avanti, però non so se vi ricordate il pezzo, quel breve cartone animato della Disney con il balletto dei teschi, quello in bianco e nero, proprio uno dei primi Silly Symphony. Ah, sì, sì. Che poi viene ripreso tante volte sì. Nei video musicali. Ce l'ho, in me lo ricordo. In cui gli scheletri si smontano e suonano se stessi, ed è proprio uguale, cioè, è questa roba qua. Cioè, proprio gli stessi suoni, la stessa, probabilmente chissà se l'avevano ripreso da qua, però forse sì. Anche qui in effetti è vero che riprende Schumann Skeleton, al di là delle varie altre cose che abbiamo detto, ma anche proprio nell'incisività, che effettivamente sì. In un minuto e mezzo, riesce. Come il grind di Schumann ci aveva insegnato, in un minuto riesce effettivamente a descrivere perfettamente qualcosa. Sì, lui fu uno dei più grandi sostenitori di Schumann, delle opere di Schumann. Lui appunto lo considerava uno dei maggiori autori, è stato uno dei primi proprio a valorizzare l'autore di cui abbiamo parlato l'altra volta, e si sente contro l'opinione corrente, tra l'altro, perché appunto non si sa che Schumann non godeva di grande fama, E che era considerato un pazzo, esatto, e morì in manicomio, esatto, non a caso. E invece a Sanzani piaceva, e tra l'altro Sanzani era un grandissimo amante anche di Mozart, si sente direi spesso un po' nella, e in netto anticipo rispetto alla diffusa sensibilità musicale che invece in quel momento prediligeva più altri autori. Invece ecco, lui aveva proprio queste passioni, e dicevo prima anche di Wagner, si capisce, perché soprattutto nella parte, quella che abbiamo sentito dell'acquario, no? A volte ha ricordato momenti, il tema quello proprio dell'acqua all'inizio del ciclo dell'anello, delle ondine, la nascita proprio delle... quel pezzo che è l'intro poi a tutta la trilogia dell'anello, che è molto famosa, l'Overture, che proprio descrive gli elementi dell'acqua, e assomigliava, si capisce insomma che fosse, non so se era un omaggio, però insomma come mai gli piaceva Wagner, ecco, e che riusciva a rendere uno dei autori che riusciva a rendere di più in generale le ambientazioni del mondo naturale, no? Proprio perché spesso erano al centro della filosofia dell'opera, quindi ecco. Il prossimo? Esatto, sì. E a questo punto sì, passiamo al prossimo, che è un po' forse il più conosciuto di tutta la suite, che è... Ma il numero 13, quindi ora non vorrei... E qui... esoterismo... E via via. Esatto. Sì, perché appunto Camille Saint-Saëns era pure un esoterico, insomma, un amante dell'esoterico. Sì, il DJ fa dei gesti osceni. Probabilmente sta disegnando un pentacolo, sì, in terra. No, fa gestacci più brutti. Ma ha fatto il gesto dell'ombrello anche lui. No, guarda, non lo vabbè. Cerco di non guardarlo. Vabbè, niente, non lo so. Comunque sì, c'è cioè il prossimo pezzo che è il Cigno, le Cygne, sì, si diceva il più famoso, sicuramente anche, beh, non so se è il più ripreso, ma sicuramente quello che poi, le cui citazioni poi sono quelle poi più conosciute, insomma. Sì, tra l'altro era quello che si diceva all'inizio, l'unico, prima che, cioè, che lui poi interrompesse l'esecuzione delle opere, l'unico pezzo che poi andò, diciamo, al pubblico quando lui era ancora in vita, perché appunto, come si diceva prima, aveva permesso l'esecuzione solo di questa parte qua, quindi evidentemente era quella che lui considerava la più riuscita, forse, no? Eh sì. E il resto invece non andò in esecuzione completa se non dopo la sua morte, quindi insomma, proprio per volere suo, l'opera doveva essere eseguita pubblicamente solo dopo la sua morte. Infatti la prima di quest'opera fu il 26 febbraio del 22, quindi 36 anni dopo la sua composizione, e a parte il brano del Cigno, appunto. Anche qui una citazione, giusto? Sì. Perché mi sembra. No, in realtà io intendevo citazione nel senso che viene lui citato da altri, perché ha influenzato, sì, il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, poi di fatto, e da qui poi ne nasce il balletto famosissimo composto per Anna Pavlova e la ballerina famosissima russa. Che insomma poi diciamo è diventata una delle cose più famose della danza, sicuramente almeno del periodo, ma insomma direi anche in generale. Esatto, la morte del Cigno per la coreografia di Michael Fokin, su questo pezzo, quindi gli alpeggi dei due pianoforti, violoncello, che espone il tema in tempo 6/4 in sol maggiore. Sì, tra l'altro tutti i gestacci che ci stava facendo Gino in realtà erano a significare che è il pezzo più lungo, ci voleva dire che era il pezzo più lungo del disco. Fossero gesti erotici, va bene. Ma è che va a rebus. Noi pensiamo male. Va a rebus. È sempre un ragazzo. Io pensavo agli insulti invece. Pensavo una cosa tipo, vabbè. Vabbè, comunque, è così. Grazie DJ, perché sottolinea le cose tecniche. Esatto, sì. Che il Cigno è il pezzo più lungo, sì. E in effetti è vero, e quindi ve lo facciamo sentire singolo, per intero, tutto da solo. Vai, dagliene. Thank you. Ecco, e questo qui era il cigno, l'avrete riconosciuto, anche se no, abbiamo dato un inizio un po' screcciato anche qui, sì. Però insomma era abbastanza noto e famoso, per cui penso che l'avrete riconosciuto un po' tutti. Questo era il penultimo ascolto per oggi, e prima però di lasciarvi al finale, che è il finale sia della trasmissione ma anche il finale originario della suite di Saint-Saëns, vi volevamo ricordare due comunicazioni importanti di servizio. La prima riguarda la nostra trasmissione La Fuga del Gatto, che dalla prossima domenica inizierà l'orario estivo. Attenzione. L'orario illegale, potremmo definirlo, sì. Perché abbiamo deciso che, insomma, cioè, a parte che dopo il sabato sera, cioè venire qua alle 4, no, ci fa fatica, non ce la possiamo fare, perché sì, comunque, e poi abbiamo un'età anche noi, certo, esatto, punto. Poi dopo l'abbandono della compianta 3000 siepi, esatto, non abbiamo più nessuno dietro, possiamo sforare, esatto. Oltretutto non abbiamo più nessuno che ci dorme sul pianerottolo, come diceva Benigni, quindi ci possiamo allargare, esatto. Oltretutto, bella stagione, uno magari vorrebbe stare pure fuori un piuttosto che rinchiudersi, sì, davanti ai microfoni. Dopo tutte queste scuse, insomma, dalla prossima settimana La Fuga del Gatto sarà tutte le domeniche, ma alle 6. Quindi segnatevi questo cambiamento d'orario, perché non sarà più alle 4:30 e poi tanto sforavano sempre, ma inizieremo alle 6 per fare la nostra oretta, oretta e mezza consueta di musica classica. Comunque è un ripiglino lo stesso della domenica, quindi... Anzi, pre-aperitivo, poi ripartite. Sì, e ci via. Sta, ci prima il brunch, vero, e dopo ve ne andate a sentire La Fuga del Gatto. Esatto. Poi l'altra comunicazione di servizio è invece una comunicazione di agenda degli impegni, anche questa ve la dovete segnare, perché venerdì prossimo, venerdì 7 aprile al Next Emerson di Firenze c'è un appuntamento un po' strano e bizzarro, che però ci sentiamo di pubblicizzarvi, sì, perché è un musical che si chiama Capitalism, che è portato in scena per la prima volta in Italia soltanto in due date, qui a Firenze a Next Emerson e a XM24 a Bologna. È un musical con un cast internazionale, con sede a Dublino, e si può definire un musical acrobatico, ecco. Io vi leggo un po' la descrizione, che è musica acrobatico nato a Dublino, animato da attori, musicisti, ballerini, acrobati provenienti da mezzo mondo. È un'acrobatica satira politica sullo stato in cui ci troviamo e sul futuro che possiamo creare. Una tagliente favola che parla di eroi, imperatori e magia. Un cast internazionale mette in scena potere e controllo attraverso acrobatici virtuosismi. Gli incantesimi si lanciano e si spezzano, le soffiate se le porta via il vento e un possibile futuro è scritto. La serata, i dettagli tecnici solo, dico che alle 20 c'è una periscena benefit inguaiati con la legge, che ricordiamo negli ultimi periodi purtroppo ce ne sono un bel po', e quindi c'è bisogno che facciate tanti benefit, venite a mangiare alle 20 del 7 aprile. Alle 22, però puntuali, mi raccomando, inizia il musical. Se arrivate alle 11, a mezzanotte, trovate tutto finito e siete venuti per niente. E niente, infatti andate a cena, così ci siete già. Sì, è tutto più facile. È un live, chiaramente, lo vedrete, sono tantissimi, sono una ventina, e suonato dal vivo in inglese, ma con i sovrattitoli in italiano, proprio come fanno nei posti seri e nei teatri quelli veri. Sì, sì, sì, accorrete numerosi, noi sosteniamo, ci piace tantissimo, lo vogliamo vedere e quindi vi invitiamo. Sì. A seguire poi ci sarà una DJ set vinilica di Emerson Setters, e quindi insomma vi invitiamo calorosamente a questa serata insolita, anche perché quando vi ricapita di vedere un musical in un posto occupato, io mi domando e dico. Veramente, finalmente un po' di gioia per noi e amanti. Cultura, esatto, dopo i ricreativi culturali. E io però vorrei, prima di introdurre il finale, che è un, come spesso succede nelle strutture dei carnevali, appunto come era anche in quello di Schumann, un allegro rondò che alterna i temi, diciamo, i vari temi incontrati durante l'opera, con alcuni nuovi, quindi temi già proposti da altri brani e piccoli nuovi temi, per ricapitolare appunto e concludere tutta l'esecuzione. Quindi questo è il finale del Carnevale degli Animali. Prima però, io, visto che qui, cioè, oggi abbiamo avuto l'ausilio tecnico del nostro slave Gino, voglio sapere com'è che, visto che abbiamo saputo com'è che è venuto in possesso del vinile, voglio sapere qual è il suo animalino preferito di tutta questa sarabanda. Qual è il tuo animalino preferito? A me mi piaceva il pezzo quello galline e galli. Perché no, perché per cioè, per quando ho avuto il disco, no? Poi, siccome appunto abitavo in questo quartiere un po' così, sì, allora per togliermi dalla strada, sostanzialmente... Un ragazzo di strada, ricordiamo. Ho iniziato, sì, a andare a... cioè, andavo a lezioni di pianoforte, però avevo pochi soldi, allora andavo all'oratorio da un prete pedofilo. E... butta malissimo, te lo dico così. E avevo imparato a suonare galline e galli. Ecco. E da questo traevo un po' di gioia. Bene. In questa mia vita. Non voglio scendere oltre, cioè andare oltre, perché potrebbero venire fuori dei, ecco, dei lati allarmanti. Sempre più Oliver Twist. Richiederebbero anni di veramente di analisi, quindi su questa falsa riga, no, direi che basta fare domande allo schiavo. Infatti, vedi, ogni volta io la curiosità ucciderà la gatta, perché continua a fare domande di cui si pente. Prossima puntata, il colore preferito. Sì, lì. Sì, beh, ogni volta, perché segno zodiacale, voglio sapere, poi però mi pento subito. Sì. Quindi ecco, bene, ognuno ha il suo animalino preferito, il nostro è ovviamente il wombat, che qui non c'è, ma c'era il canguro, in cui ci siamo andati vicini. E direi quindi finale, speriamo che vi sia piaciuto questo carnevale, sì, il secondo dei nostri carnevali. E vi possiamo anticipare già che domenica prossima alle 6, ricordiamo, puntatone sul di nuovo Mozart, di nuovo le nostre soap opera, sì, il nostro ciclo soap opera, perché vi racconteremo il flauto magico, visto che me lo sono andato a vedere, ecco, al Teatro dell'Opera qua a Firenze, e quindi l'ho ripassato. E quindi ci tocca, insomma. Sì, e vi farò però una grande recensione, e come fanno. Non vi è andata nemmeno troppo male, perché non è nemmeno una delle più pallose. No, assolutamente, dura un sacco però. Ma noi vi faremo una riduzione, che non pensate? Riduzioni, sì, del danno, quindi. Sì. Grazie ancora a The Slave. Grazie a The Slave Gino, Oliver Twist, e appuntamento a domenica prossima alle 6. Ciao. Ciao.